Debole il presidente europeo Viviani. Napoli ancora invasa dai rifiuti, il ministro Fitto, regioni disponibili all'aiuto, tranne Piemonte e Veneto. Calcio, dopo i successi di Milan e Roma, tocca all'Inter, Benitez ottimista, se battiamo il Twente cambia tutto. E buona giornata dalla redazione, da Anna Rita D'Ambrosio. Partiamo dunque dalla notizia dell'ultima ora, quella relativa alla protesta contro il DDL Università. Studenti in rivolta a Roma e ci sono stati momenti di tensione al Senato. Ci colleghiamo in diretta con la capitale, con Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, buongiorno, qui dal Senato un fitto lancio di uova dall'entrata principale di Palazzo Madama, quella di Corso Rinascimento, per protestare contro la riforma dell'università a firma di Maria Stella Gelmini. Gli studenti hanno superato le barriere di sicurezza e sono entrati in Senato. Personalmente, passando dall'entrata principale, ho visto i tuorli d'uovo che imbrattavano le colonne dell'entrata principale. Gli studenti quindi hanno fatto irruzione nell'ingresso di Palazzo Madama e sono poi stati allontanati dalle forze dell'ordine, che hanno chiuso il portone del Senato. Durante l'invasione dell'atrio da parte di questi studenti contestatori, una persona poi ha accusato un malore che è stata rialzata davanti ai miei occhi. Poi i ragazzi sono stati trascinati e respinti all'esterno. Adesso fuori da Palazzo Madama ci sono le forze dell'ordine schierate davanti all'ingresso del Senato in tenuta antisommossa. Gli studenti urlano ovviamente dimissioni, dimissioni, e sono adesso stati spostati in piazza Navona. Il disegno di legge di riforma dell'università a firma del ministro Maria Stella Gelmini è all'esame però della Camera e dovrebbe essere approvato domani da Montecitorio, dopo aver ricevuto il prima via libera dal Senato. Studenti e professori stanno manifestando anche fuori dalla Camera. Per il momento qui da Palazzo Madama è tutto per studio. Grazie Elisabetta, la protesta dilaga in tutta Italia, ricercatori sul tetto, assemblee e facoltà occupate. Sentiamo. Ci provano fino all'ultimo anche dai tetti. Da ieri docenti, ricercatori e studenti degli Atenei italiani, coordinati dalla Rete 29 Aprile, si sono mobilitati occupando facoltà universitarie e adottando a Milano, Roma, Salerno e Torino la permanenza sui tetti ad oltranza. L'obiettivo è dire no al decreto di riforma, ma anche denunciare quello che viene considerato un voltafaccia di Futuro e Libertà sulle garanzie economiche, come spiega Bruno Maida, ricercatore docente dell'Università Torinese. Si era presa l'impegno pubblico di votare eventualmente questa legge, ma solo dopo la finanziaria. Questo impegno non lo sta rispettando. Andrea Imar, studente di scienze politiche a Torino, è tra coloro che hanno passato la notte sul tetto di Palazzo Nuovo. Torino fa parecchio freddo in questi giorni, però sì, ci si è attrezzati a dovere. Solamente come studente abbiamo appoggiato da sempre la mobilitazione dei ricercatori, perché oltre alla legge Gelmini, oltre al taglio di finanziamenti sull'università, c'è anche un problema sul taglio al finanziamento invece del diritto allo studio. La protesta intanto sceglie anche altre forme. Oggi sul Corriere della Sera il personale del Politecnico di Milano ha acquistato un'intera pagina per chiedere un ripensamento del DDL Gelmini. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Giovani dunque che si mobilitano, studenti contro il DDL Gelmini, e intanto l'esecutivo si mobilita invece in favore dei giovani. Oggi è stata presentata l'iniziativa denominata Diritto al Futuro a Palazzo Chigi con il ministro Meloni, e c'era anche il premier Berlusconi, che ha parlato diffusamente nell'ultima parte della conferenza anche della tenuta del governo. Ci aggiorna in diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, vado avanti nonostante gossip e critiche. Silvio Berlusconi rilancia sulla sua permanenza a Palazzo Chigi, ribadisce quanto fatto dal governo comunque in condizioni difficili, da una crisi internazionale che ha messo in difficoltà le economie, al debito del nostro paese che fa da zavorra alla competitività, una pubblica amministrazione che costa e che con i suoi tempi lunghissimi pesa sullo sviluppo del paese. Tutti i problemi questi che non sono risolvibili in poco tempo, è facile parlare, ha detto il Cavaliere, rivolto all'opposizione e a chi come Montezemolo aveva parlato di governo ai titoli di coda. Berlusconi ha quindi detto che il 14 dicembre avrà la fiducia e che in caso contrario si dovrà andare alle urne. Di tutto abbiamo bisogno fuorché di instabilità, ha aggiunto il Presidente del Consiglio, ma ascoltiamo le sue parole. La conclusione discende immediata. L'Italia ha bisogno di tutto fuorché di qualcosa che non sia stabilità di governo. Quindi un attacco a Fini dovrebbe fare un passo indietro da Presidente della Camera. Su un eventuale ingresso dell'UDC nel governo il Premier ha fatto capire che ci sono tuttora dei margini. Un ingresso dei centristi per Berlusconi sarebbe nell'interesse del Paese. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo. Borse incerte, nuovo scivolone dell'euro oggi sulla scia dei timori per la crisi irlandese. Viviamo ore gravi, ma bisogna calmare le acque e passare all'azione. L'appello lanciato dal Presidente von Rompuy alla plenaria del Parlamento Europeo. La Merkel Merkel. Poco prima aveva avvertito l'Europa, sì agli aiuti, ma bisogna risanare i conti. Un'altra giornata di passione sul fronte occidentale. L'Europa si sveglia con il taglio del rating sull'Irlanda da parte di Standard & Poor's. La notizia non sconvolge i mercati, del resto piove sul bagnato. L'Irlanda avrà 85 miliardi per ricapitalizzare le banche e finanziare la spesa pubblica. Questi soldi aumenteranno il peso dello Stato nelle banche irlandesi. Dublino si ritroverà così con una grossa quota della Bank of Ireland, la situazione più spinosa. Nel resto del continente, mentre ogni capitale stila il conto della propria esposizione verso la ormai ex Tigre Celtica. L'ultima in ordine di tempo è Bruxelles, che si trova scoperta per 44 miliardi di euro. C'è chi si affretta da giorni a ripetere che la propria situazione è diversa e lontana da quella irlandese. Secondo lo spagnolo José Manuel Campa, segretario di Stato all'economia, c'è addirittura un abisso tra Madrid e Dublino. Anche il premier portoghese marca le distanze. Non abbiamo bisogno di aiuti, non saremo i prossimi della lista. Per scongiurare il pericolo, Lisbona ha messo insieme una finanziaria che punta a tagliare il rapporto deficit-PIL dal 7,3% al 4,6%. I sindacati l'hanno bollata come una dichiarazione di guerra ai lavoratori. Per questo oggi il paese è bloccato da uno sciopero generale che ha coinvolto tutti i settori, dai trasporti alla scuola. Il tutto sotto gli occhi severi di Berlino, guida effettiva dell'Europa, che non sacrifica però i propri interessi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sin qui dunque quello che è accaduto in questa mattinata. Intanto sulle piazze finanziarie l'euro torna a scendere, i mercati sono nervosi, come ci conferma la nostra Debora Rosciani. Debora. Sì, buongiorno. Mercati contrastati in questo momento in Europa. Spicca il rialzo di Francoforte, più 1,12%. Gli acquisti sulla piazza tedesca sono stati incoraggiati questa mattina dall'IFO, l'indice di fiducia, che è risultato migliore delle attese. Però questo dato non ha contribuito a risollevare l'umore dell'euro, che sul dollaro quota adesso 1,33 e 31, ma stamattina è scivolato anche al di sotto della soglia di 1,33. Le altre borse sono appena positive: Londra più 0,6, Parigi più 0,24, mentre manca il rimbalzo. Piazza Affari sul FTSE MIB c'è un calo dello 0,36%. Milano stamattina perdeva oltre un punto percentuale. A testimoniare da un altro versante la tensione di questa mattina i rendimenti dei titoli di Stato. Vi faccio un esempio: cosa è successo in Spagna ad un'asta stamane? I tassi di interesse sui titoli a 10 anni, sui bonus a 10 anni, hanno superato la soglia del 5% per la prima volta dal 2002. Il balzo dei rendimenti conferma i timori per il rischio di contagio della crisi del debito irlandese. Anna Rita. Grazie Debora Rosciani. Anche la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha parlato oggi della crisi irlandese. Siamo un grande paese, mobilitiamoci, ha detto la leader degli industriali italiani, riferendosi all'Italia e la crisi economica. La Marcegaglia ha parlato alla presentazione della Fondazione per Roma 2020. Sentiamola al microfono di Alessandra Schepisi. Siamo un grande paese, è vero, viviamo un momento molto difficile dal punto di vista economico, dal punto di vista della stabilità politica, però siamo un grande paese, è giusto ricordarlo, è giusto evidenziare che appunto c'è spazio per noi, per le nostre merci, per la nostra cultura, per la nostra capacità di attrarre investimenti, turisti e attenzione nel mondo. Noi pensiamo davvero che mobilitandoci tutti insieme, lavorando con grande senso di responsabilità, privati e pubblico insieme, noi potremmo magari partecipare, forse anche vincere. Dall'estero adesso, per parlare di noi, del ministro La Russa come D'Annunzio sui cieli dell'Afghanistan, dove ha effettuato oggi un volantinaggio dall'elicottero che lo ha trasportato dalla base di Herat al distaccamento di Balamurghab. Sui manifesti il messaggio rivolto alla popolazione è a fare attenzione ai pericoli delle mine e a respingere gli insurti. L'attacco lanciato ieri dalla Corea del Nord contro un'isola sudcoreana che ha causato la morte di almeno 4 persone fa discutere e fa preoccupare. È stato deciso per rafforzare le credenziali militari del suo prossimo leader Kim Jong-un, il terzo figlio del leader supremo Kim Jong-il. Lo ha affermato oggi il premier sudcoreano. Sicuramente uno degli aspetti è questo, ma ci sono anche altre questioni, come ha spiegato Franco Maffei, docente dell'Orientale di Napoli. Lo ha intervistato Cristina Carpinelli. È una cosa che rientra nella strategia della politica estera di Pyongyang, fare delle provocazioni, tanto non ha niente da perdere, e quindi ricatto nucleare. Tempo fa ha affondato una nave sudcoreana, ha sorvolato il cielo giapponese, quindi non è una cosa nuova. Un'altra spiegazione è appunto quella interna, il problema interno di legittimare il figlio più giovane dell'attuale presidente al potere. E c'è anche una questione più economica, nel senso di alzare il tiro anche con la Cina. È certo, perché è l'unica potenza, voglio dire, che in qualche modo sostiene la Corea del Nord è la Cina. In effetti la risposta della Cina a questa provocazione è stata tiepida. La Corea del Nord è un paese accerchiato, dal punto di vista politico è una satrapia, è all'orlo della fame, proprio letteralmente della fame. È chiaro che è anche un segnale alla comunità internazionale che noi dobbiamo cogliere, non dobbiamo dimenticare che il problema coreano è nostro. La divisione della Corea è l'ultima stimata della guerra fredda, che è costata milioni di morti in Asia. Rimane questa ferita aperta della guerra fredda che bisogna in qualche modo cercare di chiudere. Sicurezza sulle strade, presentata oggi la campagna di sensibilizzazione O bevi o guidi di Assobirra con l'onorevole Mario Balducci, presidente della Commissione Trasporti. Monica Ceravolo ha intervistato Sergio Dondolini, direttore generale della sicurezza stradale del Ministero dei Trasporti. Il costo complessivo ammonta a 28 miliardi di euro, il dato è relativo al 2009, sono stati appunto resi noti recentemente dalle statistiche Istat. La guida in stato di ebbrezza è sicuramente una componente molto importante dell'incidentalità stradale. Pensi soltanto che negli ultimi anni abbiamo acquistato circa 1000 etilometri e 2200 precursori che abbiamo consegnato alle forze di polizia, questo come Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno permesso di passare da 250.000 controlli che si avevano nel 2006 ai 2 milioni che ce ne sono stati nel 2010. Musica per chiudere questa prima parte con il gran finale ieri di X Factor. Per la prima volta in rosa, Adriana Fracchi ha intervistato la vincitrice Natalie. Erano pezzi di vetro sparsi sul nostro cammino. È una grande emozione, grande confusione anche, perché devo dire che intanto uscire dal loft e ritrovarsi in tutto questo caos meraviglioso è una cosa inaspettata e stupenda, splendida. E poi sono felice di aver fatto una mia canzone, di aver portato una mia canzone sul palco di X Factor. Non è stato semplicissimo e non era la prima scelta da parte della casa discografica, ma per fortuna, insistendo, sono riuscita a fare questa cosa. Molti davano vincente Davi, però alla fine ce l'hai fatta tu. Ma io non me l'aspettavo, devo dire la verità, nel senso che mi sarei felicemente accontentata del secondo posto, però questa sorpresa chiaramente è stata ancora più gradita. Adesso cosa ti aspetti per il futuro? Quello che mi auguro fondamentalmente è fare un mio disco inedito di mie canzoni e di girare molto, di suonare dal vivo, perché è la mia dimensione più naturale e vorrei proseguire in quella direzione soprattutto. Con Elio come vi siete lasciati? In ottimi rapporti, è stata una persona splendida dall'inizio alla fine, estremamente corretta e sempre con un consiglio giusto al momento giusto. Non potevo segnare di meglio, ecco. Berlusconi rassicura, avremo la fiducia, invita l'UDC ad un appoggio esterno. Cesa risponde no, il premier si dimetta. Università e licei, dilaga la protesta, studenti tentano di entrare al Senato e lanciano uova. Standard & Poor's declassa l'Irlanda, euro debole, il presidente europeo, viviamo ore gravi. Napoli ancora invasa dai rifiuti, il ministro Fitto, regioni disponibili all'aiuto, tranne Piemonte e Veneto. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Come anticipato, apriamo un'ampia pagina adesso in questa seconda parte del nostro GR sulla questione rifiuti. All'indomani dell'intervento del premier Berlusconi ieri a Ballarò, che ha suscitato anche numerose polemiche politiche. Oggi il presidente Garimberti ha difeso Floris e parlato di RAI come terreno di scontro. Alessandro Milan stamani ha intervistato il ministro Raffaele Fitto, che ieri era ospite da Floris. Colpa degli enti locali, ha ribadito il ministro sui rifiuti. Sentiamo. Basta leggere la documentazione, le carte. Il governo ha varato dal 2008 a fine del 2009 una serie di atti, compreso la realizzazione del termovalorizzatore di Acerra, l'assistenza degli impianti intermedi e le discariche. Al 31 dicembre del 2009 sono cessati i poteri straordinari del governo e sono ritornati i poteri agli enti locali. Dal 1 gennaio di quest'anno i poteri sono in capo agli enti locali. Quello che è accaduto in questo anno è responsabilità precisa degli enti locali e quindi il governo su questa vicenda qui prende atto di questa situazione, è intervenuto, come è noto, con il Presidente del Consiglio sia per fare un accordo fra i sindaci e risolvere il problema della chiusura e riapertura di alcune discariche, sia individuando in modo molto chiaro con un intervento con l'esercito per ripulire la città da rifiuti qualche giorno addietro. Oggi siamo in questa situazione. Il decreto che il governo ha varato riattiva dei poteri e delle condizioni straordinarie di fronte ad una incapacità cronica che esiste a livello locale. Il solito palleggio di responsabilità, colpa degli enti locali, colpa del governo. Un fatto è certo, Napoli è invasa dai rifiuti e io ho un ospite che saluto subito e ringrazio per la sua presenza durante il nostro GR per parlare dei rifiuti e soprattutto di Napoli, della situazione della città di Napoli. È il direttore del quotidiano Il Mattino, Virman Cusenza. Buona giornata. Buongiorno a voi. Allora, direttore, oramai è diventata una questione politica. Ieri c'è stato l'intervento di Berlusconi che tante polemiche ha anche suscitato. Questa mattina l'onorevole Barbato dell'Italia dei Valori si è presentato in aula alla Camera con un sacchetto dell'immondizia in mano e poi è stato espulso. Fitto dice è colpa degli enti locali, ma la città come sta rispondendo? Io adesso leggo dalle agenzie: immondizia sparsa in strada, traffico in tilt. La città non ne può più. Beh, la città non ne può più da parecchio, devo dire, e naturalmente ha le sue responsabilità, perché poi alla fine, insomma, appunto in questo gioco lo scaricabarile e ognuno deve prendersi le sue. E la città è un po' in una situazione simile, come hanno detto anche i commissari dell'Unione Europea in visita fino a ieri qui, e una situazione simile appunto a 2 anni e mezzo fa, con le tonnellate, siamo arrivate a 10.000 circa, appunto ancora per le strade di Napoli e provincia. È una situazione un po' diversa rispetto a quella di 3 anni fa. In che cosa? Allora non c'era neanche il meccanismo, non è che si era inceppato un meccanismo, mancava proprio, quindi con la chiusura delle discariche disponibili di fatto l'immondizia era destinata a rimanere stanziale, diciamo, per settimane e settimane. Adesso il meccanismo ci sarebbe, il reperimento di appunto una nuova discarica o micro discariche, come vengono definite, che potrebbe alleviare la situazione. Tutto questo insieme a un piano, che è poi quello previsto dal decreto, che però, come riconosce anche il governatore Caldoro, non potrà andare a regime prima di 3 anni, che è esattamente il tempo necessario a costruire i nuovi termovalorizzatori, in particolare quello di Napoli Est e quello di Salerno. E 3 anni ovviamente sono troppi e la città sicuramente non se li può permettere. Tanto, sì. Non se li può permettere. Direttore, ci sono 2 novità dell'ultima ora. La Russa, che oggi sì, lanciava i volantini, ha detto che non esclude la presenza dei militari, il ritorno dei militari a Napoli. Sì. Volevo sapere da lei se secondo lei è una strada percorribile o meno. Di Ma nuovo. La strada necessaria mi sembra più che percorribile, perché senza i militari non si potrà presidiare la nuova discarica, che io mi auguro, ma penso anche con qualche fondamento, in questo momento sia, come dire, oggetto di ricerca da parte della regione, perché è evidente che in questo momento appunto non c'è una discarica disponibile in cui portare i rifiuti di Napoli. Di conseguenza, se non vogliamo aspettare 3 anni e nel frattempo fare di Napoli una Pompei sotto la spazzatura, dobbiamo evidentemente reperire in tempi brevissimi questa discarica. Tra l'altro vorrei ricordare che per aprire una nuova occorrono almeno 3 mesi, quindi l'unica possibilità è di utilizzarne una già o già utilizzata o comunque da allargare, che sia immediatamente appunto pronta, perché altrimenti l'emergenza è destinata a durare, con tutti i suoi rischi anche di tipo sanitario che sappiamo, ad aprirsi brevemente, insomma. Direttore, un'ultima domanda e una risposta altrettanto telegrafica. L'altra novità viene proprio dal ministro Fitto, che abbiamo sentito sì, prima. Ha detto che tutte le regioni sono disponibili tranne Piemonte e Veneto. Esatto. Quanto possono aiutare le altre regioni? Ma le regioni possono aiutare sicuramente nell'immediato, si parla di un mese per gli aiuti appunto nel senso del trasporto dei rifiuti fuori dalla Campania. È chiaro che non può essere una soluzione definitiva, però vorrei soltanto aggiungere che il no di Veneto e Piemonte la dice lunga anche su che tipo di paese che siamo, perché è evidente che stiamo parlando di una soluzione appunto d'emergenza, di una situazione in cui i rifiuti non dovrebbero puzzare di più se vengono da Napoli o da un'altra regione, quindi chi ha discariche e impianti di termovalorizzazione dovrebbe mettere a disposizione per fronteggiare un'emergenza. Non si tratta qui di dire se sono quelli della Campania, della Sicilia, piuttosto che quelli della Lombardia o del Veneto. Io trovo che ci sia in questo una pregiudiziale di tipo leghista francamente inaccettabile. Grazie al direttore del quotidiano Il Mattino di Napoli, Virman Cusenza, per essere stato con noi. Grazie. Noi... Grazie. Passiamo adesso a parlare di imprese, alle nostre storie, di quelle che sono uscite dalla crisi. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. 2009 sul 2008 abbiamo perso quasi il 15, mentre il 2010 sul 2009 siamo molto contenti perché stiamo facendo più 6. Maria Cirri è la titolare della Inverni, azienda di Signa in provincia di Firenze che produce accessori in lana, soprattutto cappelli. Per uscire dalla crisi ha deciso di cambiare target, non più la grande distribuzione, ma prodotti di qualità, di fascia alta, che ultimamente vengono apprezzati soprattutto in mercati come quello americano. Ancora Maria Cirri. La strategia vincente è stata quella di esporsi in prima persona, iniziare ad uscire da questa scatola chiusa che è la nostra azienda, pur bella, però rimane una scatola chiusa se non si esce da qua e si va a trovarsi, a strapparsi i clienti con le proprie mani, senza nessun aiuto da parte né dello Stato né di nessun tipo di organizzazione, prendere gli aerei, la valigia, fare le fiere, andare a cercarsi i clienti e farsi conoscere. E il prodotto poi parla quasi da solo. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora parliamo di arte. In tempi di tagli alla cultura ed emergenza conservazione per il patrimonio artistico italiano, sentir parlare di economia sostenibile dei beni culturali fa subito drizzare le orecchie. A fare notizia è il primo progetto di Brand Valuation, la stima del valore di mercato di un marchio realizzato in Italia e in Europa nel mondo dell'arte. Il nome in oggetto è quello di Amedeo Modigliani, valore economico 28 milioni di euro. Tanto varrebbero, secondo Interbrand, società leader nel settore, le potenzialità economiche del marchio, tradotte in una serie di prodotti firmati con il brand Modigliani. Dai sigari alle porcellane fino ai gioielli e alle auto. Mercati chiave Giappone, Brasile e Stati Uniti. A chi storce il naso, Luciano Renzi, segretario generale del Modigliani Institute, committente dello studio, risponde così. Sappiamo che ormai il nostro patrimonio artistico è immenso, non basterebbero i soldi del bilancio pubblico degli Stati Uniti per mantenerlo. Se non c'è questo grande sforzo, che naturalmente deve essere molto rigoroso, noi siamo l'ente certificatore di Modigliani, ma noi crediamo che il sistema della divulgazione attraverso anche le imprese possa essere un connubio di assoluta dignità anche per il mondo dell'arte. Non si tratta di merchandising, il brand management è il futuro dell'arte, gli fa eco Manfredi Ricca, a capo di Interbrand Italia. Credo che questo progetto mostri come il branding, nel senso più nobile del termine, quindi non semplicemente logo e magliette, possa essere realmente la chiave di volta per un'economia sostenibile dei beni culturali. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca ha aperto e subito rinviato oggi il processo davanti alla Corte d'Assise l'appello di Perugia a Raffaele Sollecito ed Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kerscher. Temporaneo impedimento è stato questo il motivo del rinvio immediato della prima udienza. La richiesta è stata avanzata dalla difesa di Raffaele Sollecito riferendosi alla gravidanza dell'avvocato Giulia Bongiorno. In realtà è stata una cortesia da parte del collegio, ha sottolineato il presidente appunto del collegio giudicante, perché il codice consentirebbe di andare avanti, ma è stata una cortesia, una decisione carina. Violenza, secondo voi la legge tutela abbastanza le donne? Era il nostro sondaggio di oggi, avete risposto in maggioranza no, le donne non sono tutelate per il 76%. E adesso parliamo di calcio. Ieri sera la qualificazione del Milan agli ottavi e la preziosa vittoria della Roma, stasera è l'Inter a caccia del successo, scaccia crisi in Champions. Non penso che possiamo perdere, siamo preparati per vincere, basta. Sarà la prima partita dei tanti che vinciamo insieme. Fiducia, vittorie, futuro. Rafa Benitez parla come non sapesse che quello di stasera contro il Twente potrebbe essere il capolinea della sua avventura nerazzurra. Ma lo spagnolo è tecnico navigato e accorto, non ignora che dopo mesi di infortuni, incertezze e scarsi risultati è ormai arrivata la resa dei conti. Si gioca tutto in 90 minuti contro i rognosi olandesi del Twente, allora Rafa, convinto che con i tre punti arriverebbe poi la svolta attesa da mesi. Sono sicuro che se vinciamo cambierà e la mentalità e l'intorno sarà più positivo. La fede del popolo nerazzurro vacilla, ma Benitez vede uno spogliatoio unito e sente la fiducia della società. Intanto dalla lista infortunati esce Thiago Motta, che stasera si siederà in panchina. Che sia il primo buon auspicio in vista del verdetto senza appello. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, grazie regia Roberto Scaltritti, vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce, il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore.